Sai che questa sera ballerei qui con te, forse solo per non tornare a casa ancora solo. Sai che questa sera ballerei qui con te, forse solo per soffiare via un po' di polvere dall'animo stanco che ho. Ma sai che questa sera ballerei qui con te, forse solo per provare a capire com'è che si sta a non pensare più e a ballare con chi capiterà. Ma vedi, io Francesca lo so, tante persone si scelgono, tante invece no. Ma questa sera ho promesso a me stesso di non pensarci più per un po'. A che ora passerà la vita a dirci che forza non ce n'è, voglia non ce n'è per baciarsi stasera senza pentirsene? A che ora passerà la vita a dirci che forza non ce n'è? Io giuro non ne ho per stringere forte quello che stasera pesa di noi. Ma sai che questa sera il mondo gira con me, anche se io non giro più con lui, perché le parole qui perdono il senso e il resto mi chiedo dove finirà. Ma sai che questa sera ballerei qui con te per stringerti ancora e sentire com'è che mi sento se perdo la testa e tutto si ferma qui vicino a te. Ma vedi, io Francesca lo so, tante persone si scelgono, tante invece no. Ma questa sera ho promesso a me stesso di non pensarci più per un po'. A che ora passerà la vita a dirci che forza non ce n'è, voglia non ce n'è per baciarsi stasera senza pentirsene? A che ora passerà la vita a dirci che forza non ce n'è? Giuro non ne ho per stringere forte quello che stasera resta di noi.